Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Secondo il rapporto del governo, sono in calo i consumatori di sostanze stupefacenti. Costo inferiore ed errata percezione della pericolosità aumentano la tendenza al ricorso ad altre sostanze, soprattutto alcol e psicofarmaci. Le difficoltà dei mercati non risparmiano quello della droga. Almeno in Italia, secondo la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze, il numero complessivo dei consumatori è diminuito del 27,5%. I ricercatori di Palazzo Chigi hanno calcolato che tra il 2009 e il 2010 la compravendita di cannabis è scesa del 9%, anche se la classificazione per fasce d'età rivela che gli studenti tra i 15 e i 19 anni vi ricorrono assai più volentieri dei fratelli maggiori, 12,3% contro 3%, come più spesso cedono alle sirene della cocaina, 1,6% contro 0,4% nell'ultimo mese. Per noi è una bella giornata. Grazie agli interventi sul territorio, alla deterrenza e all'innegabile contributo della crisi economica, possiamo dire che la droga non è un flagello imbattibile, commenta il sottosegretario Carlo Giovanardi, ricevendo il messaggio compiaciuto del premier Berlusconi. Se gli abitué restano saldamente a quota 400.000, i 2,5 milioni di consumatori occasionali sembrano aver fatto un passo indietro. Lo sballo mantiene l'irresistibile fascino del proibito, come dimostra il vizio di mescolare le sostanze e soprattutto l'impennata nell'uso di alcol, che dal 2007 a oggi è cresciuto del 18,2% con un incremento percentuale delle ubriacature frequenti, oltre 40 volte nella vita, del 200%. Ma, sostiene lo studio, il ricorso al vino o al whisky potrebbe dipendere dalla ridotta capacità di spesa di chi allenta i freni solo saltuariamente e dalla percezione di minor rischio. Gli operatori del settore registrano i nuovi dati senza grande convinzione. L'esperienza quotidiana, ammettono, non regala loro motivi d'entusiasmo. Sebbene i morti per overdose siano scesi dai 1.200 del 1999 ai 484 del 2009, i ricoveri in ospedale sono passati dal 4,2% al 5%, raggiungendo la cifra di 41,7 ogni 100.000 abitanti. Chi lavora a stretto contatto con la tossicodipendenza sa esattamente cosa significhi. I servizi sono in notevole difficoltà. Io comunque non ho constatato alcuna diminuzione delle richieste di cura, anzi, osserva Fausto D'Egidio, segretario nazionale di FederCert e direttore del CERT di Pescara. Un'obiezione confermata da Achille Saletti, leader del centro Salman, che gestisce una decina di comunità di recupero. C'è qualcosa che non quadra. Le crisi di solito sono uno stimolo anziché un disincentivo al consumo di sostanze stupefacenti. Infatti in Lombardia la domanda d'aiuto è cresciuta, si abusa di droghe, alcol e psicofarmaci. Chi, come Francesco Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, non discute la metodologia dello studio contestata invece dal responsabile sanità del Partito Democratico Paolo Fontanelli, rilutta però a dormire sugli allori. Dobbiamo tenere alta la guardia e insistere con la prevenzione culturale. Al centro di Villa Maraini di Roma, dove vengono 250 persone al giorno, notiamo l'aumento dei ragazzi e il ritorno all'eroina. La tendenza a perdere volontariamente la testa, insomma, è intatta. Parola di DJ Aniceto, testimonial di una campagna TV antidipendenza, proprio perché testimone delle notti in cui i giovani, per sentirsi giovani, si fanno di alcol fino all'inverosimile, scimmiottando i VIP. Il problema, concordano anche i curatori del rapporto di Palazzo Chigi, è amplificato dal fatto che sostanze più o meno lecite sono ormai facilmente reperibili in rete. Il fenomeno dell'offerta di droga sul web è caratterizzato da farmacie online che vendono prodotti di qualsiasi genere senza richiedere alcuna prescrizione medica, si legge nella parte finale della relazione governativa. Vale a dire il paradiso degli sperimentatori accessoriato di forum, blog, chat, social network, in cui scambiarsi informazioni e consigli. Pare che la moda dei farmaparty, festini adolescenziali a tutto sballo, organizzati svaligiando l'armadietto dei medicinali dei genitori, sia dilagata internetianamente dagli Stati Uniti all'Europa. Un viaggio facile, almeno all'andata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Paci, La crisi batte l'eroina, ora è allarme alcol, dalla Stampa del 23 giugno. Secondo gli ultimi dati Istat, sono aumentate le separazioni delle coppie oltre i 60 anni. Quando l'amore finisce e non ci sono più figli in famiglia, anche le coppie grigie scoppiano. Un'irresistibile voglia di ricominciare, anche se si è overanta e magari già nonni. Si chiamano divorzi grigi, ma di grigio non hanno nulla, se non forse il colore dei capelli di chi sceglie di cambiare strada in un'età in cui molto sembra già fatto e il futuro appare ad un tratto più corto. Uomini e donne che a 60-65 anni dividono destini trentennali, figli, case, beni, ricordi, e si lasciano perché l'amore è finito, perché si vuole stare da soli, perché per lui o per lei c'è stato un altro incontro. I divorzi in età sono sempre di più, in Italia come nel resto del mondo. Eppure da noi se ne parla poco, il fenomeno è recente. Nel 2007 l'8,3% di tutte le separazioni ha riguardato coppie 60 e oltre, come scrive l'Istat, con una netta accelerazione rispetto a pochi anni prima. Ed è il sintomo di un cambiamento profondo, di una mentalità che sovverte l'anagrafe, seppur ancora sussurrata e sottotraccia. Siamo di fronte a qualcosa il cui impatto sociale è ancora tutto da valutare, spiega Laura Arosio, ricercatrice di sociologia all'Università Bicocca di Milano, ma che è legato all'allungamento della vita media, ad un diffondersi sempre maggiore dell'autonomia economica delle donne, ma anche ad una generazione che non ha alcuna intenzione di rinunciare alla propria autorealizzazione perché gli anni passano. Dal 1974 ad oggi il numero delle separazioni oltre i 60 anni è passato dal 3,2% al 5,9% del 2000, fino all'8,3% del 2007, con un'impennata dunque negli ultimi 7 anni. E su questa instabilità coniugale che sembra aver contagiato ormai diffusamente quella che fino a qualche tempo fa veniva chiamata terza età, stanno provando ad interrogarsi studiosi, demografi, medici e soprattutto geriatri. Perché il fenomeno dei divorzi grigi sembra essere culturale e chimico insieme, e legato in parte a quei farmaci Viagra, Cialis, che almeno per l'uomo hanno abbattuto le frontiere della sessualità legate all'autunno del corpo. Questi sessantenni, scrive Laura Arosio sul sito Neodemos, sono nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno conosciuto il boom economico, le turbulenze del 68, hanno un atteggiamento diverso verso la famiglia e verso il matrimonio, che non vedono più necessariamente come un legame per la vita. Nello stesso tempo, però, è anche la vita stessa ad aver cambiato marcia, come sottolineano gli scienziati. La maturità è spesso caratterizzata da buona salute e da un'aspettativa di vita che permette ancora sogni, progetti, amori. Di certo, però, ci troviamo di fronte alla rottura di un tabù, rispetto al quale i figli, già adulti, hanno reazioni differenti. Sono profonde in Italia le radici della famiglia, un impasto di tradizioni e di welfare sostitutivo dove i nonni hanno un ruolo fondamentale e dove dunque il Grey Divorce ha un impatto profondo, seppure con numeri ancora limitati. Intanto però, sottolinea con una battuta Gian Ettore Gassani, avvocato matrimonialista, i tribunali sono pieni di coppie con i capelli bianchi. Spesso avviene quando l'ultimo figlio si sposa e se ne va, allora finiscono gli alibi per restare insieme, la conflittualità esplode, spiega Gassani, o più semplicemente si decide di mettere fine ad un rapporto che non esiste più. Però non è vero che la situazione è paritaria, almeno a quanto vedo dal mio osservatorio. Nelle coppie over 60 sono spesso le donne ad essere lasciate. I maschi se ne vanno, complice il Viagra, con una compagna più giovane e sono drammi che si trasformano in battaglie giudiziarie lunghe, con i figli adulti nel mezzo chiamati a fare da mediatori. Quello che è vero è il cambiamento di mentalità, ma molto dipende dalle capacità economiche e dal livello culturale delle donne. Mi è capitato di recente, racconta Gassani, di assistere una signora di quasi 70 anni che ha abbandonato il marito per sposarsi con un suo vecchio amore. Però non è la norma e soprattutto ci sono due Italie. Già comunemente al sud le separazioni e i divorzi sono nettamente inferiori rispetto al centro-nord. Poi, se si va avanti con l'età, la percentuale si fa minima. Non perché la coppia funzioni, ma perché spesso si preferisce una separazione di fatto ad una separazione legale. Per motivi religiosi, morali, ma soprattutto economici. L'esercito dei separati in casa, dice ancora Gassani, è assai più vasto e sommerso di quanto si creda. Dietro tutto questo ci sono i dati di questi anni, in cui il divorzio si sta trasformando in un'emergenza sociale che impoverisce entrambi i coniugi e ancor più se l'unico reddito è la pensione. E se uno dei due è magari più fragile, già attaccato dai problemi dell'età, può diventare un trauma difficile da superare. È l'altra faccia di un mutamento sociale dove però come nel resto d'Europa, i divorzi grigi continueranno ad aumentare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Novella De Luca, Il divorzio tardivo, dalla Repubblica del 23 giugno. Letture di Radio 24. Dopo lo scivolone sulla rivista Rolling Stone, il generale nato Stanley McChrystal è stato rimosso dall'incarico da Barack Obama. McChrystal non aveva risparmiato nel corso di un'intervista frasi al vetriolo rivolte ai componenti dell'amministrazione Obama. Al suo posto arriverà Petraeus. Nessun individuo è più importante della guerra o delle nostre istituzioni. Dovendo scegliere tra la prova di forza e il gesto magnanimo, Barack Obama ha preferito la forza. Ha licenziato ieri, dopo un breve incontro di 20 minuti, il generale Stanley McChrystal, il capo delle operazioni in Afghanistan, che aveva irriso e offeso in un'intervista alcuni dei più importanti membri che formano la squadra che combatte la guerra afghana contro i talebani e Al-Qaeda. Il presidente americano, improvvisamente al centro di una delle più drammatiche crisi militari da quando è entrato alla Casa Bianca, ha già annunciato il sostituto, il generale David Petraeus, uno dei militari più collaudati delle forze armate americane, l'ex capo delle operazioni in Iraq, attualmente responsabile del comando centrale, che dalla Florida gestisce tutte le operazioni militari in Medio Oriente. In attesa dell'avvicendamento, il generale britannico Nick Parker ha assunto le funzioni di comandante ad interim delle forze della NATO in Afghanistan. «Voglio che sia chiaro», ha detto Obama durante il breve annuncio dalla Casa Bianca al fianco del vicepresidente Joe Biden, «che si tratta di un cambiamento di personalità, non di politica». Il presidente, perennemente ambiguo e indeciso, ha dunque scelto con rapidità e chiarezza incontestabili. Ha voluto dare un segnale chiaro sul prevalere delle autorità civili, delle regole e delle istituzioni democratiche, sulla sfida e sulla provocazione del singolo, per quanto goliardica. Obama si è presentato alla stampa nel Giardino delle Rose poco dopo le 13:30. Poco prima si era visto a quattro occhi con McChrystal. Ma poi il generale è stato escluso dall'incontro dei capi di Stato Maggiore. Un segnale che indicava già l'orientamento del presidente. Il segreto sulla sua decisione finale, tuttavia, per una volta, era stato gelosamente custodito fino all'ultimo. «Oggi ho accettato le dimissioni del generale McChrystal. L'ho fatto con difficoltà, ma con la certezza che è la decisione migliore per la guerra in Afghanistan, per i militari e per il nostro paese. Ho anche nominato il generale Petraeus per sostituirlo. So che farà del suo meglio», ha detto Obama in un discorso drammatico in cui ha affrontato anche le difficoltà della guerra, riaffermando l'obiettivo di sconfiggere Al-Qaeda e i talebani e di mantenere la missione invariata. Il presidente ha voluto anche spiegare il processo che l'ha portato alla decisione. Gli strateghi politici della Casa Bianca erano al lavoro da lunedì notte, da quando avevano ricevuto l'anteprima dell'articolo di Michael Hastings, che sarà pubblicato sulla rivista Rolling Stones nel suo prossimo numero. E si confrontavano con un processo decisionale straordinariamente complesso, perché metteva in gioco equilibri multipli. Il rapporto del generale degli Stati Uniti con il presidente afghano Hamid Karzai, che chiedeva la conferma di McChrystal, il morale delle truppe sul campo, i rapporti all'interno di una vasta squadra, dal presidente e vicepresidente Biden fino all'inviato Richard Holbrooke, al capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, impegnata sia sul piano politico che su quello militare nella guerra, e profondamente offesi dalle dichiarazioni. Improvvisamente, nel dibattito irrompeva anche un interrogativo sulla nuova strategia di Obama in Afghanistan, che porterà 30.000 nuovi soldati al fronte entro l'estate. L'obiettivo diventava quello di spiegare come si sarebbe mantenuta la strategia licenziando il suo principale architetto. «Il dibattito nella mia squadra è benvenuto, la divisione no», ha detto Obama. «Ho deciso di fare a meno del generale McChrystal, un militare di grande valore, non per rispondere ad un insulto personale o per differenze sulla missione. Ho deciso perché la guerra è più grande di una persona, di un soldato, di un generale o di un presidente. Dobbiamo essere una forza unica e unita. La condotta di McChrystal, riportata in un articolo di giornale, non appartiene allo standard di un generale al comando. Lo standard di Petraeus è invece indiscutibile. È amato da tutte le fazioni politiche, conosce a fondo la regione, potrà fare da collegamento con il Pakistan e ha a sua volta un buon rapporto con Karzai». Barack Obama ha così interpretato fino in fondo il suo ruolo di Commander in Chief. Ha parlato con solennità e, come spesso gli succede da qualche tempo a questa parte, è riuscito, almeno a giudicare dalle reazioni a caldo, a trasformare una situazione difficile in cui emergevano comunque sentimenti di derisione nei suoi confronti in una vittoria politica. McChrystal ha a sua volta rilasciato una dichiarazione. «Condivido la decisione del presidente in nome dell'unità delle truppe», lo ha detto con tutta l'amarezza del soldato Rambo, eroico ma indisciplinato. Dopo le 100 ore di punizioni collezionate all'Accademia di West Point per insubordinazione e altre azioni controverse, l'ultimo atto di ribellione gli è costato la fine prematura della carriera. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Platero, McChrystal rimosso, arriva Petraeus, da Il Sole 24 Ore del 24 giugno. Filippo Laporta, sul Corriere della Sera, spiega perché l'appellativo «giovani scrittori» è un inganno delle società gerontocratiche che tendono a spostare in avanti l'epicentro della creatività. L'insensata, martellante espressione «giovani scrittori», quasi solo formula di marketing o categoria sociologica, contiene un falso clamoroso, come suggerisce sulla New Yorker Review of Books Sam Tainhouse, commentando una selezione del New Yorker di 20 promettenti scrittori under 40. Perché infatti promettenti? L'aggettivo evoca, illusoriamente, talenti solo parzialmente dispiegati e ulteriori fioriture espressive. Eppure nella storia della letteratura gli autori hanno dato il meglio di sé quasi sempre prima dei 40 anni. Tolstoi iniziò a scrivere Guerra e Pace a 34 anni, Flaubert, Madame Bovary a 29 anni e la finì a 34. Mann pubblicò i Buddenbrook a 24 anni, Joyce l'Ulisse nei suoi 30, Kafka la Metamorfosi a 29, Proust avviò la Recherche a 37. Negli Stati Uniti Moby Dick uscì che Melville aveva 32 anni. Il grande Gatsby, Il sole sorge ancora e L'urlo e il furore, quando rispettivamente Scott Fitzgerald aveva 28 anni, Hemingway 27 e Faulkner 32. Mahler era appena 25enne all'epoca de Il nudo e il morto e Roth, Goodbye Columbus, solo un anno più vecchio. È vero, Virginia Woolf esordì dopo i 40 e Harry James 60enne, ma si tratta di eccezioni. Gli scrittori non sono come studiosi, ma come atleti. Dopo i 30 anni mettono su pancia. Se guardiamo alle patrie lettere, di fronte a un Gadda che esordì nella piena maturità, occorre ricordare almeno il Moravia, 21enne degli Indifferenti, il Calvino, 24enne dei Sentieri dei Nidi di Ragno, l'Amorante, 36enne di Menzogna e Sortilegio. E anche recentemente spesso l'opera prima di un autore è stata la sua cosa migliore. In società gerontocratiche piace pensare che l'epicentro della creatività si sposti in avanti. Ora si può verosimilmente esordire a qualsiasi età, dal Tondelli di Altri Libertini, 28enne, al Bufalino della Diceria dell'Untore, 61enne, ma senza alimentare il mito consolatorio di potenzialità inesplose e promesse da compiersi. L'etichetta giovani scrittori è ingannevole, infantilizza gli scrittori stessi, oltre ogni ragionevole limite di età, e li predispone a considerarsi eterni apprendisti, da cui ci si aspetta, chissà perché, capolavori futuri. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Filippo Laporta, L'inganno dei giovani scrittori nelle società gerontocratiche, dal Corriere della Sera del 24 giugno. Nei giorni scorsi, per la prima volta, un uomo è stato infettato da un virus informatico. Fantascienza? No, ma nemmeno realtà. La notizia ha fatto sobbalzare gli appassionati di fantascienza. Mark Gasson, ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo di Reading, ha annunciato qualche giorno fa di essere stato infettato da un virus informatico. La fantasia è corsa ai romanzi di scrittori cyberpunk, come William Gibson e Bruce Sterling, in cui le guerre si combattono fra eserciti di cyborg, ibridi uomo-macchina, che combattono anche infettandosi con questi maligni frammenti di codice, capaci di devastare interi sistemi informatici. L'eccitazione si è smorzata non appena si è capito che la notizia era una mezza bufala, nel senso che Gasson, dopo essersi fatto impiantare un microchip nella mano, operazione che già altri avevano compiuto, allo scopo di sperimentare interfacce per il comando a distanza di apparati elettronici, ha voluto dimostrare che il rischio di infezione connaturato all'utilizzo di simili dispositivi non è trascurabile. Ragionandoci su, tuttavia, varrebbe la pena di sottolineare come si sia trattato appunto di una mezza bufala. In effetti, la mera possibilità che un virus informatico possa provocare il malfunzionamento delle sempre più sofisticate protesi elettroniche utilizzate in campo medico è da brividi. Un po' meno tragica, ma non poco fastidiosa, la possibilità che simili epidemie colpiscano una tecnologia sempre più pervasiva e presente nella nostra vita quotidiana. Ai cellulari è già capitato e in un prossimo futuro potrebbe capitare ai frigoriferi, abitazioni, automobili e vestiti, sempre più infarciti di microchip e diavolerie con simili. Ve li immaginate? Automobili che invitano ad accelerare invece che raccomandare di moderare la velocità, appartamenti che, invece di accogliere il proprietario con un cortese saluto, lo mandano a quel paese, frigoriferi che scambiano le date di scadenza dei surgelati. In un film di qualche decennio fa, il comico francese Jacques Tati anticipò i tempi, sfottendo i maniaci dell'automazione domestica, ma ciò che allora era puro divertissement, oggi potrebbe divenire realtà ed essere meno divertente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carlo Formenti Da Jacques Tati al chip infetto. La rivolta high tech fa sempre paura, dal Corriere della Sera del 14 giugno.